Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini. Contemplatelo, saturato d'obbrobri, in quest'ostia in cui risiede, tutto infiammato d'amore per voi. Non potendo più contenere gli ardori che lo consumano, ha voluto questo cuore divino darsi al mondo che lo trafigge con la lancia dell'ingratitudine e del dolore. È il supremo ed ultimo sforzo della redenzione. Ascoltiamolo, questo amatissimo maestro, parlarci. Nell'ostia voi avete il mio cuore, io ve lo do, io ve lo lascio senza riserva, in cambio del vostro cuore ingrato e peccatore. Oh, io ho sete, un'immensa sete di essere amato nel sacramento dell'amor mio. Sono rimasto finora il re silenzioso, il monarca dimenticato. Ma l'ora del trionfo è venuta. Vengo a riconquistar la terra. Voglio regnarvi malgrado gli sforzi dell'inferno e la salverò con l'onnipotenza del mio cuore. Rispondete al mio desiderio, aprite le anime vostre per ricevere questo dono supremo della mia misericordia redentrice. Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Questo fuoco è la vita e l'amore sconfinato. Questo fuoco è la santità. Questo fuoco è il sacrificio. E che cosa voglio io mai se non che s'accenda? Gettate uno sguardo nel mio cuore straziato, questo cuore che va amato fino agli annientamenti di Betlemme, fino alle umiliazioni e all'oscurità di Nazaret, ma più ancora fino alla spaventosa agonia del Calvario. E questo stesso cuore che, avendo cessato di batter sul Golgota, continua ad amarvi, focolare inestinguibile d'amore nella Santa Eucaristia. E tuttavia io non sono amato, ecco perché sono triste fino alla morte, ecco perché soffro i dolori dell'agonia. La mia vigna prediletta non produsse che delle spine, esse circondano il mio cuore. Strappatele in quest'ora santa, ora d'amore, tanto preziosa per voi, tanto dolce al Dio prigioniero, che nel suo tabernacolo vi chiede e aspetta e vuole il vostro amore. Muoio d'amore. Avvicinatevi, sostenetemi nella mia mistica agonia di 20 secoli, nel mio sacramento. Siate i miei angeli consolatori, io vi amo tanto teneramente. Ma amate abbastanza voi, amici miei, voi miei privilegiati? Ahimè, il mondo disconosce tutte le mie effusioni di bontà, respinge tutte le mie misericordie. Son triste fino alla morte. Venite, ecco questo cuore che non cessò mai d'amarvi. Venite, prendetelo come pegno di redenzione. Venite, miei amati, venite e datemi in cambio il vostro cuore, la vostra anima, la vostra vita. Datemi le vostre pene e le vostre gioie. Oh, siate interamente miei e tutti. Io vi perdono, ma amatemi. Ditemi finalmente che io sono il vostro re e che accettate con riconoscenza il dono incomparabile del mio cuore. Noi siamo indegni di un tal dono, umiliamoci, ma poiché Dio è misericordioso al di là di ogni misura, domandiamogli il dono celeste che Egli ci offre e che non è altro se non Lui stesso, per la nostra santificazione e per la sua gloria. Signore Gesù, i nostri cuori sono troppo poveri, non osiamo offrirtili. prendili, son tuoi, ma in cambio dacci sempre il tuo divin cuore. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Donaci per sempre il tuo divin cuore. In nome della Vergine Maria, dacci il tuo cuore, Gesù, nelle ore di fervore, quando sentiamo il desiderio ardente di amarti e di soffrir come i santi. Donaci per sempre il tuo divin cuore. In nome dell'Apostolo prediletto, dacci il tuo divin cuore, Gesù, nelle ore di pace, quando godiamo della dolce tranquillità d'una coscienza pura o perdonata. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Nel nome dei tuoi amici di Betania, donaci il tuo cuore, Gesù, nelle ore di angoscia e di pena, mentre passano sulle nostre anime i tormenti del dolore. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Nel nome degli apostoli privilegiati del Tabor e del Getsemani, donaci il tuo cuore, Gesù, negli istanti di gioia e nelle ore d'agonia. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Nel nome di Maddalena pentita e delle donne piangenti di Gerusalemme, donaci il tuo cuore, Gesù, nelle ore di umana debolezza o quando ci stimola la grazia del pentimento. Donaci per sempre il tuo divin cuore. In nome della Santa Chiesa, donaci, Gesù, il tuo divin cuore nelle ore di battaglia, quando essa ci chiude il tributo del nostro zelo e dei nostri sacrifici. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Nel nome di San Bernardo, Sant'Agostino e San Francesco di Sales, Santa Matilde e Santa Geltrude, felici precursori di questa ammirabile devozione, donaci il tuo cuore, Gesù, nell'ora delle dissoluzioni, mentre tu chiedi da noi un maggior fervore. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Nel nome della tua sposa e prima apostola, Santa Margherita Maria, donaci il tuo divin cuore, Gesù, in tutti i momenti della vita e soprattutto nelle angosce della morte. Donaci per sempre il tuo divin cuore. Oh sì, dacci il tuo cuore, Gesù, che sia la nostra vita, il nostro riposo, il nostro cielo, nonostante la nostra indegnità, che esso sia per noi, Gesù, con tutti i suoi tesori di luce, di pace e di forza, giacché in questo santuario divino vogliamo imparare ad amarti, a glorificarti, Gesù. Tu ci hai dato già la croce, ci hai dato la madre tua, ci hai dato il tuo sangue. Oh, donaci fin da questo esilio e per sempre il paradiso del tuo cuore. Con esso non ambiremo più niente, né in cielo né sulla terra. Chiediamo la grazia della fedeltà e della generosità per compensare il Signore dell'incomparabile dono del suo cuore divino. Scongiuriamolo che da quest'ora santa emani una nuova luce, una grande luce, per apprezzare l'amabilità e la larghezza infinita di un Dio che ci offre la sorgente stessa della vita sua. Umiliamoci, confondiamoci e soprattutto amiamo colui che ci ha amato tanto. Ascoltiamo la sua voce. Mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene perché tal sono. Però, qui nel tabernacolo, mi sento felice schiavo dell'uomo, per amore dell'uomo ingrato. Felice di chiamarvi ai piedi del mio altare, di sollecitare il vostro amore, di darmi a voi. Io sono il Signore, il Re del cielo e della terra, e cerco le mie soddisfazioni e mi consolo fra mezzo a voi, fiori di campi, grani di sabbia del deserto. Io vi amo però tanto tanto da crearmi una divina necessità di voi. Senza di voi che mi avete offeso, senza di voi che mi avete dimenticato, senza di voi che mi avete posposto alla volgarità della terra, senza di voi, figli prodighi del mio focolare, io, Gesù, non potrei vivere, senza di voi, redenti dal mio sangue. Il mio cielo sarebbe il fallimento del figlio dell'uomo se non vi avessi come diadema d'amore. Mi siete costati tanto. Riconoscetelo anche voi, almeno, preferiti del mio gregge. Proclamate in quest'ora santa i vostri sentimenti di fede, poiché il mondo non intende persuadersi che io l'amo a tal segno. Ditemi che accettate il tesoro del mio cuore divino, in ossequio mio, per il mio trionfo, per la mia gloria, perché io, Gesù, il Dio del tabernacolo, ho creato il cuore umano per riposare in esso, per trasformarlo nell'Eden di tutte le mie delizie. Sono il Dio dell'eternità, e il mio cuore qui, nel Tempio, ha bisogno di voi. Sì, ho bisogno di convivere con voi, come i miei fratelli. Sono stanco, sono ferito e triste, non indugiate. Venite con grande amore ed offritemi, con fede viva, un'ospitalità di tenerezza, di fede ardente, di carità consolatrice nelle vostre anime. Io sono Gesù, ho fame di voi, parlatemi, apritemi, amatemi, amatemi senza misura. Noi siamo venuti, infatti, per parlargli, per aprire le anime nostre e donargliele, infiammate d'amore. Che confessione quella di Gesù, dirci che ha bisogno di noi, mendicare un amore che gli è dovuto. Rispondiamoli con un'ardente protesta d'amore, è il nostro cuore che ha bisogno di lui. Nel vederti, o Gesù, così accessibile e buono, invece di esclamar come l'Apostolo, allontanati da noi che siamo poveri peccatori, noi veniamo anzi incontro a te per stringere sempre più la beata intimità fra il tuo cuore e i nostri. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, quando quelli che governano il mondo disprezzano la tua legge e maledicono il tuo nome. Ricordati che siamo tuoi, che siamo consacrati alla gloria del tuo divin cuore. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, quando la moltitudine, aggruppata da Lucifero e dai settari che la seguono, assalta i tuoi santuari e nella profanazione reclama il tuo sangue. Ricordati che siamo tuoi e consacrati alla gloria del tuo divin cuore. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, quando gemi per gli insulti e per le catene, onde oltraggiano la tua Chiesa Santa i potenti del mondo e i falsi sapienti, di cui condannasti l'orgoglio con dolcissima fermezza. Ricordati che siamo tuoi e consacrati alla gloria del tuo divin cuore. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, quando milioni di cristiani, dimentichi della tua adorabile persona, ti feriscono crudelmente con la spada della loro tranquilla indifferenza. Ricordati che siamo tuoi, che siamo consacrati alla gloria del tuo divin cuore. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, nell'ora in cui tanti buoni e virtuosi ti misurano con avarizia il loro amore. Ti lesinano con meschinità riprovevole la loro confidenza, ti negano il conforto che troveresti nel loro spirito di sacrificio, nella loro santificazione. Ricordati che siamo tuoi e consacrati alla gloria del tuo divin cuore. Vieni, Gesù, vieni a riposare nei nostri cuori che ti amano, quando ti opprime l'infedeltà, quando ti amareggia la tiepidezza delle anime privilegiate che per vocazione dovrebbero essere tutte tue, unicamente anelanti alla santità. Più che mai in quest'ora di suprema desolazione, ricordati che siamo tuoi. Volgi verso di noi il tuo sguardo accorato e supplichevole. Non dimenticar che siamo tuoi figli, consacrati per sempre alla gloria del tuo divin cuore. Sull'altare del nostro sacrificio, per la tua gloria cantiamo questa parola. Viva il tuo sacro cuore, o Maestro amatissimo, che venga il regno tuo. Se voi sentite il rimorso di qualche mancanza intima, d'una ricaduta, d'una mancanza di generosità che sappiate aver ferito dolorosamente nostro Signore, chiedetegli un perdono generoso. Egli sa tutto, ma vuole una protesta d'amore e di sentimento. Tutto il mio desiderio, miei piccoli figli, è di vedervi gustar la mia vita. Io ve l'ho data col mio sangue e anelo che voi la viviate. Ve la do col mio cuore, che essa sia la vostra nuova vita. Voglio vivere in voi perché voi avete bisogno di me per sostenere le vostre debolezze di coscienza, la fiacchezza dei vostri propositi, l'incostanza del vostro amor di Dio. Venite, predestinati della mia Eucaristia. Io sono la fortezza. Assaporate le mie vita. Ve la comunico donandovi il mio cuore. Ve la do per il momento in cui sostenete l'urto violento delle tentazioni. Non vi scoraggiate, non cedete alle insinuazioni del nemico della vostra salvezza. Siate forti, mantenetevi nella grazia, non mi abbandonate per non rimaner soli nella lotta, per conservare la pace dell'anima vostra. Venite, voi, predestinati della mia Eucaristia, io sono la ricompensa, solo io sono la vittoria. Assaporate la mia vita, ve la comunico donandovi il mio cuore, ve la do per il momento in cui sostenete l'urto violento delle tentazioni. Non vi scoraggiate, non cedete alle insinuazioni del nemico della vostra salvezza. Siate forti, mantenetevi nella grazia, non mi abbandonate per non rimaner soli nella lotta, per conservare la pace dell'anima vostra. Venite, voi, predestinati della mia Eucaristia. Io sono la ricompensa, solo io sono la vittoria. Assaporate la mia vita, ve la partecipo nel donarvi il mio cuore. Ve la do per il momento in cui l'assalto delle creature mi contrasta il vostro cuore, cercando di piegarvi verso la terra, nell'intento di distogliervi dal pensiero e dall'amore del vostro Dio. Disingannatevi, non date ascolto a questo mondo seduttore e mendace. Resistete con coraggio e venite, voi, predestinati della mia Eucaristia. Io sono il vostro solo confidente, il vostro fedelissimo amico. Assaporate la mia vita, ve la do per mezzo del mio cuore per il momento in cui il pungiglione del rimorso, il peso dei vostri peccati, il riconoscimento della vostra profonda miseria morale vi accusa, per il momento in cui la minaccia della mia giustizia vi schiaccia come una montagna vendicatrice. Rialzatevi da questa prostrazione non piangete senza speranza nella caduta della colpa. Poveri, infermi, peccatori, venite, siate sempre miei, figli della mia grande misericordia. Venite, siate i predestinati della mia Eucaristia. Io sono il perdono di Dio, io sono l'amore. Assaporate la mia vita, ve la do per mezzo del mio cuore, ve la do per il momento in cui sentite pesare sul vostro le dense nubi della tristezza e le amarezze del dolore. Com'è triste, com'è dolorosa e incerta la vita. Non la maledite, non perdete il tesoro prezioso delle vostre lacrime, non gemete da soli nello sconforto dei vostri cuori desolati. Venite, siate i predestinati della mia Eucaristia, non tardate. Io sono il nettare e il balsamo che guarisce ogni ferita. Io sono il consolatore. Mi chiamo Gesù. Egli ci dà il suo cuore non solamente per cercarsi una consolazione, ma soprattutto per fortificarci, per infonderci una vita nuova, per mostrarci la più grande misericordia. Ringraziamolo, scongiuriamolo di lasciarcelo impegno d'amore nel tempo, nell'ora della morte e nell'eternità. Grazie, Signore Gesù, per la tenerezza misericordiosa con cui prevenisti i nostri mali, ci offristi il prodigioso rimedio del tuo cuore. Grazie, Gesù, per la cura incomprensibile che ti prendi per i nostri interessi, mentre noi meriteremmo la tua indifferenza, in punizione appunto della nostra noncuranza e di tante nostre offese. Dolce e buon Gesù del tabernacolo, grazie. Per testimoniarti la riconoscenza nostra, in compenso delle altrui e delle proprie ingratitudini, noi vogliamo, durante quest'ora santa, noi, privilegiati del tuo piccolo gregge, vogliamo occuparci con tutte le ansietà dell'amore, dei tuoi più cari interessi. Son tanti i congiurati che tramano il complotto deicida della bestemmia, della negazione pubblica e sociale della tua regalità. Numerosi sono i colpevoli, o Gesù, che ti condannano tacendo, sia col silenzio ipocrita che sdegna di pronunciare il tuo nome, sia col silenzio più insultante e più pungente ancora che affetta di non conoscerti neanche. Ti flagellano, ti spogliano, ti colpiscono al viso. Hanno l'audacia di invocar motivi di giustizia e di pace sociale, o Maestro amatissimo, per domandare il tuo esilio e decretar la tua morte. No, sovrano dell'amore, mille volte no. Qui riuniti come in un cenacolo, vivificati dal fuoco d'una novella Pentecoste, quella dell'Eucaristia, noi protestiamo contro questo deicidio legale dell'epoca nostra, e infiammati di zelo per la gloria della tua causa, noi ti proclamiamo vincitore e re. Noi vogliamo il trionfo dell'amor tuo, promesso agli eserciti che combattono col grido di viva il Sacro Cuore. Noi vogliamo regnare su noi, se non te solo. Avvicinati, Maestro Divino, rendi più stretti i nodi che ci uniscono a te. Ricevi dalle nostre mani il diadema che hanno proteso strapparti gli orgogliosi che disconoscono i tuoi diritti. Vile polvere si proclamano i potenti e si immaginano, considerando i tuoi annientamenti e la tua umiltà, che le loro ingiurie cadano sopra te più dall'alto. Avanza trionfante in mezzo a questa assemblea fremente di fratelli, non nasconder le piaghe dei piedi e delle mani. Non far brillare e risplendere il tuo volto, mostraci piuttosto la tua testa sanguinante. Soprattutto, Gesù, non chiudere, ma lascia ben aperta per noi la profonda e celestiale piaga del tuo costato. O Re d'amore, mostrati a noi coperto della porpora del tuo sangue e col mantello dell'ignominia di tutti i peccati degli uomini, senza trasfigurarti, ma tale quale ti vide, o Gesù, la notte del Giovedì Santo, notte d'amore ed obbrobri. Accetta, Maestà adorata, l'osanna di questa guardia d'onore che veglia per la gloria del Cristo suo Re divino. Viva il tuo sacro cuore! I re, i governanti potranno spezzare le tavole della tua legge, ma dall'altezza del loro seggio affonderanno nella tomba dell'oblio, e noi, tuoi sudditi, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! I legislatori diranno che il suo Vangelo è ormai antiquato, che deve scomparire per far posto al progresso, ma si spingeranno essi stessi nella tomba dell'oblio, e noi, tuoi adoratori, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! I cattivi ricchi, gli orgogliosi, i mondani frivoli giudicheranno da altri tempi la tua morale, le cui intransigenze, secondo loro, uccidono la libertà di coscienza, ma svaniranno come ombre nella tomba dell'oblio, e noi, tuoi figli, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! Gli ambiziosi che per raggiungere alti gradi e accumular denaro promettono alle nazioni una falsa libertà e una grandezza menzognera urteranno la pietra del Calvario, la roccia su cui è fondata la Chiesa. Si oscureranno annientati nella tomba dell'oblio e noi, tuoi apostoli, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! Gli araldi d'una civiltà materialista, senza Dio e in opposizione col Vangelo, moriranno un giorno avvelenati dalle loro malefiche dottrine. Saranno inabissati nella tomba dell'oblio, maledetti dai loro stessi figli. E noi, tuoi consolatori, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! I farisei, gli orgogliosi e gli impudichi saranno invecchiati meditando la rovina mille volte decretata della tua Chiesa. Saranno perduti, sepolti nella tomba dell'eterno oblio, e noi, tuoi redenti, continueremo a proclamarti nostro re. Viva il tuo sacro cuore! Oh, sii vivi, cuore santo di Gesù, trionfa per sempre! E mentre Lucifero, l'angelo delle tenebre, finalmente cacciato dai nostri focolari, dalle scuole, dalla società, sarà eternamente incatenato negli abissi dell'inferno, noi, amici tuoi, continueremo a ripetere nei secoli dei secoli: viva il tuo sacro cuore! Nei secoli dei secoli, viva il nostro re, viva il sacro cuore! Vivi nel trionfo dell'Eucaristia e della tua Chiesa. Viva per sempre il tuo sacro cuore. Signore, noi dobbiamo lasciarti, affidato nel tabernacolo all'adorazione degli angeli e alle lodi della dolce Vergine Maria. Noi ce ne andiamo, Gesù, ma lasciamo i nostri cuori immersi nella piaga sacra e celestiale del tuo cuore. In questa serata, più bella di un'aurora, permettici ancora una preghiera, o nostro Salvatore, fratello, Signore, amico nostro. Permettici, o Dio annientato, di rammentarti tanti infelici che vivono lontano da te, in un colpevole abbandono. Sei tanto dolce, Gesù Eucaristia, dà un raggio di luce vittoriosa a tanti ciechi che non vogliono vedere le meraviglie dell'amor tuo, né riconoscere che tu sei la vita unica e vera. Fallo per la tua Santa Madre e per il tuo Sacro Cuore. Sei tanto tenero, Gesù Eucaristia. Dà la pace a tanti sbandati che la cercano nelle gioie d'un mondo seduttore, il quale non vende loro, cantando, se non lacrime e morte. Sii la loro speranza, fallo per la tua Santa Madre e per il tuo Sacro Cuore. Sei tanto compassionevole, Gesù Eucaristia. Sazia la fame d'amore, d'amore immenso che ha perduto tanti prodighi. Essi soffrono e languiscono lontani dai tuoi altari, sorgente unica di felicità. Appressali al tuo costato affinché riconoscano che tu, solo tu, o Gesù, sei la vita e l'amore. Fallo per la tua Santa Madre e per il tuo Sacro Cuore. Sei tanto amorevole, Gesù Eucaristia. Asciuga le lacrime di disperazione di quelli che, sopportando le visibili disillusioni della vita, senza il soccorso della tua grazia, hanno avvelenato la loro esistenza. Allontanati dalle gioie del paradiso terrestre, più lontani ancora dal paradiso eterno, sono immersi, poveri disgraziati, in un abisso di dolore. Scendi fino a questi infelici, Gesù Eucaristia, cercali, va loro incontro con quelle parole d'amore che fanno trasalire la terra, il mare, i cieli, parole di ineffabile giubilo nelle regioni dell'eternità. Fallo, Gesù, per la tua Santa Madre e per il tuo Sacro Cuore. E adesso nascondici nel tuo Sacro Cuore, non permetter che le creature trionfino della nostra debolezza e ci tolgano da questo Eden. Chiamaci, comandaci di venire a te, e poiché noi abbiamo conosciuto i fascini, le ricchezze del cuore del fratello, dell'amico, del Re nostro, del nostro Dio, del benignissimo Gesù, noi vogliamo rimaner là per sempre. Scrivi senza indugiare i nostri nomi nel tuo cuore adorabile. Fallo, Maestro buono, mentre noi siamo ai piedi del tuo tabernacolo santo. Signore, fa ai figli tuoi una dolce violenza, trattienili in servitù, nella prigione d'amore del tuo divino costato. Là noi vivremo d'adorazione e d'amore. Là canteremo le tue misericordie ineffabili nei secoli dei secoli. Adveniat regnum tuum. Per gli agonizzanti e i peccatori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così è in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per il trionfo universale del Sacro Cuore, specialmente nella comunione quotidiana, l'ora santa e l'intronizzazione del Sacro Cuore nei focolari domestici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così è in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.